L'innovazione intanto consiste appunto nella natura del progetto, accennare alla a questo recupero sociale e produttivo di tantissimi ettari di terra confiscata alla criminalità organizzata nel territorio dell'Alto Adige Corleonese. Poi Cento Pazzi è un'attività che rientra nelle attività più vaste di Libera, dell'associazione Libera, la quale promuove cooperative che realizzano questo genere di attività di valorizzazione del territorio e dei prodotti su terreni confiscati ormai in tutto il sud Italia, dalla Puglia alla Campania alla Sicilia e alla Calabria. Assolutamente. Voi date occupazione, ecco, quante persone lavorano con te? Ma oggi nel territorio dell'Alto Adige Corleonese abbiamo 3 cooperative, una cantina, la cantina Cento Pazzi appunto, 3 strutture agrituristiche, un centro ippico, abbiamo da poco inaugurato la bottega dei sapori e dei saperi della legalità in una casa confiscata nel centro di Corleone a Provenzano, e complessivamente ormai superiamo le 100 unità di lavoratori, ecco, nelle nostre pensate, cooperative, che in piccole realtà come queste sono dei numeri comunque. Sono dei numeri importanti. Pensate che bello, cari radioascoltatori, mangiare e bere alla faccia della mafia.